Dio ha resuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare la corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo, anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione.